A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Sesta medaglia per l'Italia, arriva dal judo con Rosalba Forcinetti, bronzo nella categoria 52 kg. Claudio Arrigoni per Radio 24, 800 24 00 24, il nostro numero verde 349 238 6666 per i vostri sms. Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. E oggi un ospite veramente gradito, perché siamo insieme a Xavier Jacobelli, oggi direttore editoriale di calciomercato.com, il primo sito anche in ordine di tempo, vero Xavier, che si occupa di mercato, ma poi nel passato direttore di quotidiani e mille altre cose. Buongiorno Xavier, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a te Claudio, buongiorno agli amici ascoltatori di Radio 24, è un vero piacere, un vero onore per noi di calciomercato.com essere qui. Allora, Olimpiadi che sono cominciate bene, Xavier, abbiamo oggi un'altra medaglia, ma poi quello che succederà stasera con Federica Pellegrini, con Occhiuzzi che è in semifinale nella sciabola dopo aver eliminato Aldo Montano, insomma sono Olimpiadi che sono cominciate bene per l'Italia. Direi benissimo la previsione che aveva formulato alla vigilia il presidente del CONI Gianni Petrucci, che si augurava 26-27 medaglie. È una previsione immediatamente suffragata da dati molto positivi. C'era stata la straordinaria cerimonia di apertura, non so tu Claudio, ma mi era piaciuta moltissimo, sì, soprattutto. Anche questo humor e questa autoironia inglese che ha visto la regina Elisabetta trasformarsi in una Bond girl meravigliosa insieme quella. Con Craig e poi con il mitico Mr. Bean, ma al di là di questo, questa cavalcata nella storia di questo straordinario paese è stata veramente memorabile, e il fatto che oltre 1 miliardo di persone abbia seguito in televisione la cerimonia inaugurale dei giochi della 30ª Olimpiadi la dice lunga su quanto abbia avuto successo. Lo sport italiano si presenta in questa tornata particolarmente competitivo, e credo che l'entusiasmo della prima giornata e, come dicevi tu, le soddisfazioni nuove che ci ha già regalato oggi con il bronzo nel judo, ma che potrebbero essere ulteriormente accresciute in serata, dimostri la vitalità di questa nazione che mira ad arrivare fra le prime 10 del medagliere, che nonostante la crisi economica abbia imposto tagli drammatici alla CONI e alle federazioni, ha campioni, idee, progetti, entusiasmo, passione che sono capaci di consentire all'Italia di fare ancora questa bellissima figura. Finora terzi nel medagliere, perché è arrivato un bronzo, ma dicevamo ci sono buone possibilità e speriamo naturalmente tutti questa sera. 21:15 nella finale nel nuoto del 400 serie libero per Federica Pellegrini, settimo tempo per lei in qualificazione, un po' di alti e bassi che vedremo poi con il nostro Dario Ricci, che è inviato a Londra per Radio 24. Poi c'è anche la staffetta nei 400 stile libero con Magnini in testa, nei 100 rana prima ci sarà la finale con Scozzoli, secondo tempo in qualificazione per lui. Sono partiti anche i tornei a squadre, benissimo la pallanuoto con un esordio ottimo sull'Australia, 8-5 per i campioni del mondo. Poi anche la pallavolo che comincia questa sera, Italia-Polonia, Polonia fra l'altro allenata da un altro CT azzurro, Anastasi, e è iniziata anche ieri invece il volley femminile con l'Italia che ha battuto la Repubblica Dominicana 3-1. È cominciato il torneo di basket, non c'è l'Italia ma c'è il Dream Team che gioca contro la Francia, non bene Chiara Cainero, quinta nel tiro a volo, quindi non è riuscita neanche a salire sul podio dopo l'oro di ciclismo, non benissimo l'oro di Pechino, non benissimo nel ciclismo, quinta la Bronzini nella gara in linea vinta da Marianne Vos, che era strafavorita, che così come era Cavendish ieri strafavorito, ma non è andato benissimo. E abbiamo un'altra semidelusione, perché poi è arrivato il quarto posto nei tuffi, dove era per noi Dario Ricci, quarto posto per Cagnotto Dalla Pè. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno da Londra. Beh, oggi la giornata sembra decisamente diversa rispetto a quella di, di ieri, e mi dai la linea proprio mentre da pochi istanti ho visto negli occhi le lacrime di Francesca Dallapè per questo quarto posto che lascia tanta amarezza. Perché? Perché fino al quarto tuffo le azzurre erano saldamente in terza posizione dietro agli inarrivabili cinesi e alle statunitensi. Poi c'è stato un errore piuttosto netto di Tania. Il tuffo ha perso sincrono e quindi è stato valutato in modo estremamente negativo, e di fatto poi le canadesi, che pure in un paio di esecuzioni sono state tutt'altro che perfette, hanno realizzato il sorpasso e si sono messe al collo questa medaglia di bronzo. Ci saranno come sempre anche delle polemiche, perché l'errore italiano è arrivato nel corso di una gara in cui comunque alle canadesi, per detta dello stesso Giorgio Cagnotto, il nostro CT e papà di Tania, è stato regalato più di un mezzo punto, cosa che ormai avviene in modo piuttosto abituale in queste grandi manifestazioni, ci hanno sottolineato i componenti della squadra azzurra. Però purtroppo questo errore c'è stato da parte delle nostre ragazze, ha aperto il fianco, diciamo, a questo podio sfumato che fa davvero davvero davvero male, Claudio. Sì, spiace naturalmente. Primo, soprattutto Chiara Cagnotto, speriamo nell'individuale, però è arrivato questo bronzo nel judo, Dario, è un bronzo che un po' ci mostra quanto nel judo continuiamo ad avere un po' di successi, ed è una cosa che alcune volte, come abbiamo sottolineato anche ieri, in questi sport un po' dimenticati ci stupisce. Eh sì, sappiamo che comunque il judo ormai abitualmente porta il suo contributo al nostro medagliere, e a sorpresa è arrivato un po' questo bronzo di Rosalba Fornicisi, la cosentina, ma chiaramente arricchisce ulteriormente il nostro bottino di medaglie. Adesso siamo due ori, due argenti e altrettanti bronzi, e poi questa sera, ecco, tutti i riflettori puntati sulla piscina, ma con una sensazione non straordinaria, ti confesso. Infatti adesso ne parleremo anche con Xavier Iacobelli, perché effettivamente Federica Pellegrini non ha dato l'impressione di forza e di potenza che solitamente ci dà. Allora andiamo proprio a sentirla, Dario, ci risentiremo magari più tardi proprio per capire che cosa succederà questa sera. Andiamo a sentire Federica Pellegrini dopo la qualificazione dei 400 metri con il settimo tempo. Era mattina, 400 che comunque quest'anno non è che abbia regalato grandi risultati, quindi un po' di insicurezze sicuramente c'erano. Poi le altre hanno già tirato, come era ovvio, tutta la stamattina, quindi adesso vedremo oggi pomeriggio. Addirittura l'Adlington ha rischiato di non entrare, c'è un passaggio secondo me folle la mattina. Le altre come le hai viste? Beh, bene, comunque stanno tutte bene, ma ho sorpreso sicuramente la Balmì, che non pensavo andasse così forte già la mattina, però insomma la gara è oggi pomeriggio, vedremo oggi pomeriggio. Durante la gara hai mai temuto di passare troppo lenta, di non riuscire a entrare, visti i tempi che abbiamo fatto prima? No, sinceramente di non riuscire a entrare no, però un po' il dubbio sì, perché comunque mancava un'altra batteria dopo la mia, quindi siamo entrati settimi, non è che siamo entrati secondi o terzi, quindi va bene, comunque va bene così. Va bene così, dice Federica Xavier, però non l'abbiamo vista, dicevamo prima anche con Dario Ricci, così esprimere quella potenza che solitamente esprime Federica. Ma io penso, Claudio, che il peso della pressione che ha scandito la lunga vigilia di queste Olimpiadi venga avvertito da Federica Pellegrini. Non credo che questa, dal punto di vista psicologico, possa essere la condizione migliore, perché tutti i riflettori sono puntati su di lei, perché lei è il simbolo, uno dei simboli della nostra spedizione ai Giochi Olimpici, e deve avere spalle molto larghe e capacità di resistere anche a questo tipo di pressione. Lei ha evidenziato un aspetto, ovvero che le principali avversarie hanno spinto moltissimo in sede di batteria, quindi questo potrebbe essere, come dire, un aspetto positivo a suo avviso, perché il settimo tempo certo non ci ha entusiasmati, però le ha consentito comunque di entrare in finale. Sì, sì. Io penso che questa atleta abbia risorse infinite, e che quando viene chiamata a dare prove di carattere e di orgoglio raramente fallisce. Ci auguriamo che questo si ripeta a Londra, sebbene, ribadisco, rimanere a questi livelli con una concorrenza che è spietata, e ne sa qualcosa per esempio anche Valentina Vezzali, sì. Addirittura una concorrenza interna, fermo restando il fatto che questa atleta è una leggenda. Io credo che ieri la gioia che ha provato nel conquistare questa medaglia di bronzo e comunque la grinta, la determinazione con la quale sino all'ultimo si è battuta, anche perché sembrava quasi un ideale passaggio di consegne con le compagne di squadra molto più giovani e molto più determinate. Anche se poi ha detto, vabbè, però a questo punto magari penso a Rio, ma potrebbe essere anche stata una cosa positiva questo bronzo, quindi se ci regala ancora la Vezzali per 4 anni. Direi proprio di sì. Siamo nel campo delle leggende dello sport. Penso a Josefa Idem, tanto per citare un caso analogamente straordinario di longevità agonistica, di classe e di bravura. E poi mi è piaciuto molto il modo in cui Valentina Vezzali ha interpretato il ruolo di portabandiera durante la cerimonia inaugurale. Intanto aveva preceduto questo momento con dichiarazioni molto significative. E poi penso che fosse la naturale portabandiera della spedizione italiana, perché noi siamo di fronte ad un atleta che si avvicina ai 40 anni ma dimostra un entusiasmo, una passione, una classe, una grinta che sono ammirevoli. Chiudiamo un attimo questo spazio olimpico prima di parlare di calcio con Xavier Iacobelli, direttore editoriale di calciomercato.com, che è qui con noi. Stasera grandi speranze per il nostro Scozzoli nella finale dei 100 rana, e sentiamo le sue parole dopo le semifinali. È stato veramente forte Cameron, però io comunque mi sono già dimostrato sui livelli dell'anno scorso di Shanghai e spero, diciamo, di essermi guadagnato questa finale e vedremo, dai, ce la giocheremo. Poi io spero di sì, comunque lui ha nuotato 58,8, sinceramente non so se posso nuotare un tempo del genere, però quando sei spalla a spalla sicuramente il confronto è diverso e spero di averne da vendere anch'io come lui. Finale anche nella staffetta 4% per l'Italia. Sentiamo le impressioni di Filippo Magnini. Sicuramente Andrea Rolla ha fatto 49,5, un secondo, no, 7-8 decimi in più di quello che aveva fatto agli europei. Luca 9,2, partendo comunque in ritardo, si è un po' mosso, quindi lui è stato deconcentrato, bisogna vedere, non nuotava male, quindi adesso deve far di meno. Metteremo Orso che ha riposato, è ovvio che io oggi speravo di poterla gestire un po' meglio. È stata una gara un po' dove sicuro sia io che Michele siamo partiti deconcentrati da quello che era successo prima. Oggi siamo a corsia 8, non mi piace che siamo vicini al peggio, perché comunque è una staffetta in teoria che dovremmo battere comunque facilmente, quindi se siamo davanti non avremo magari la possibilità di agganciarsi a nessuno, però è ovvio che se notiamo così è pericoloso anche il peggio, quindi dobbiamo veramente cambiare testa. Io non esultavo, ma urlavo perché ero arrabbiato. Non so, io so cosa ho dentro, io dentro la testa, e dentro la testa io voglio dare il massimo. È ovvio che una staffetta si fa in 4, quindi purtroppo da solo o in 2 non si fa, non si va da nessuna parte, soprattutto alle Olimpiadi. E allora stasera 3 grandi finali per quanto riguarda il nuoto, dove sono impegnati i nostri azzurri. Intanto il Dream Team 93-67 sulla Francia già si sta imponendo alla grande contro la Francia di Tony Parker nel torneo di basket, mentre è stata interrotta per pioggia Fognini Djokovic per quanto riguarda il tennis, che si gioca nel tempio di Wimbledon. Ma intanto, caro Xavier Iacobelli, che è qui con noi, direttore editoriale di calciomercato.com, il Milan che batte il Chelsea 1-0, Emanuelsen in gol, e anche contro il DC United finisce 1-1, ma subito in gol Ibra nel Paris Saint-Germain, mentre dalle Olimpiadi arriva lo squillo di Pato che segna con il Brasile, che sta pareggiando con la Bielorussia. Beh, Ibra intanto non l'è mandata a dire al Milan dicendo che no, non è più forte perché ha venduto i migliori, così en passant. Diciamo che questo vezzo di peccare di ingratitudine accomuna diversi campioni stranieri che prima arrivano in Italia e rimpinguano il conto in banca, vengono serviti e riveriti, poi se ne vanno e diciamo non mostrano molta eleganza, ma ognuno risponde delle proprie affermazioni. Ibrahimovic ha suscitato lo scandalo del governo francese, inorridito di fronte al fatto che guadagni 90 volte tanto quanto guadagna il presidente della Repubblica, Monsieur Hollande. Ha cominciato subito alla grande, ma mi pare che il Paris Saint-Germain, per evidenti cose naturali, considerato il suo organico, sia la squadra ultra favorita nel campionato francese. Vedremo in Champions League che cosa farà. È importante la rete di Pato, è importante perché questo giocatore, rammentiamolo, ha soltanto 22 anni, però nell'arco delle ultime due stagioni ha accusato 14 infortuni muscolari. È evidente che sia arrivato al bivio della sua carriera. Sì. Dopo la questione di gennaio, quando era già stato venduto al Paris Saint-Germain, ma l'intervento di Silvio Berlusconi e presumo anche di Barbara Berlusconi, che è la sua fidanzata, avevano bloccato tutto. Io credo e mi auguro, da estimatore di Pato, che questa sia la sua grande stagione, soprattutto perché non c'è più Ibrahimovic, perché non sono, come dire, scuole di pensiero giornalistiche quelle che riconducevano ad una difficoltà di rapporti fra il brasiliano e lo svedese dal punto di vista tecnico, ovviamente, mi riferisco a questo aspetto, perché Pato predilige giocare prima punta, ma c'era Ibrahimovic, evidentemente gli spazi sufficienti per il brasiliano venivano a mancare. Penso e mi auguro e spero che questa sia la stagione di Pato, molto responsabilizzato nel Milan, anche perché il Milan ha bisogno di una grande stagione del brasiliano. E paradossalmente, Xavier, il Milan, che ha ceduto quello che era il miglior attaccante, probabilmente il miglior attaccante in Italia, ha meno problemi lì davanti. Cioè, è certo, c'è la scommessa Pato, come dici, è una scommessa più che altro legata agli infortuni, non tanto alle capacità del giocatore. Pato ha dimostrato di essere veramente credo la media gol di Pato sia una delle più alte. Esattamente un gol ogni due gare ufficiali non complete disputate con la maglia del Milan. È impressionante, nonostante 14 infortuni nell'arco delle ultime due stagioni. Quindi da questo punto di vista, ecco, poi c'è questa suggestione Kakà che può arrivare, non credo che sia quello che sposta poi alla fine, anche se un Kakà sta bene, è un altro fenomeno, purtroppo questi ultimi anni ci hanno insegnato che non sta bene. Ecco, manca forse qualcosa invece nel reparto difensivo, dove hai perso fra l'altro uno dei migliori difensori del mondo, ma al di là di questo lì c'è da mettere a posto qualcosa. Hai perso Nesta, insomma. Vedi, Claudio, io penso che milioni di tifosi rossoneri non avrebbero imputato a Berlusconi e a Galliani come peccato mortale la cessione di Thiago Silva e di Ibrahimovic, perché dal punto di vista squisitamente economico è stato un affare. 62 sì. milioni di euro netti per i soli cartellini. Un risparmio in termini di ingaggi che lo stesso Berlusconi, parlando con i parlamentari del suo partito, aveva quantificato in 150 milioni di euro. È evidente che dal punto di vista squisitamente finanziario si è trattato di un grande colpo. Quello che i tifosi del Milan non hanno sopportato e temo non sopportino ancora, in attesa di vedere quale sarà la fisionomia completa della squadra alle ore 19 del 31 agosto, è stata la montagna di panzane che è stata propinata loro. Perché basta sfogliare i giornali o andare su internet, dove le cose sono eterne, e forse Berlusconi non ha ancora capito la differenza che passa fra le televisioni private o non private e internet, dove non puoi mentire perché ti inchiodano, perché tutto quello che dici può essere usato contro di te se menti. È evidente che se tu passi da dichiarazioni del tipo Ibrahimovic rimane al 100%, avrà la maglia numero 10, omettendo di dire che sarebbe stata quella del Paris Saint-Germain, poi il Mondo Deportivo ti racconta che nel maggio scorso un emissario rossonero aveva avvicinato Guardiola per sondarne la disponibilità ad allenare il Milan e gli aveva già detto allora non ti preoccupare per Ibrahimovic perché verrà ceduto al Paris Saint-Germain. Poi il 14 di giugno Galliani definisce un atto di eroismo il no di Berlusconi ai 50 milioni del Paris Saint-Germain e il 14 luglio viene venduto con la campagna abbonamenti aperta e quindi con l'assicurazione data ai tifosi che sia Thiago Silva sia Ibrahimovic avrebbero fatto parte dell'organico milanista, tant'è vero che Galliani ha dovuto prendere l'impegno di rimborsare gli abbonati insoddisfatti. E questo è il problema, perché se tu parli chiaro ai tifosi, che siano del Milan o di qualunque altra squadra, e gli esponi chiaramente la situazione, Berlusconi insieme con Moratti è stato l'ultimo mecenate del calcio italiano, ma il 20 aprile scorso ha ripianato ancora una volta un passivo di bilancio di 67 milioni 200 mila euro e si è evidentemente stancato e ha ragione dal suo punto di vista. Assolutamente, no? Assolutamente. Però devi dire le cose come stanno ai tifosi e adesso devi trovare un grande difensore perché Thiago Silva è il più forte del mondo. E intanto un sms che è arrivato al 349-238-6666, diciamo non esattamente vicino ai tifosi del calcio, dice: viva il vero sport, riferendosi all'Olimpiade. Ma il vero sport è anche il calcio, non è che non siamo... Sì, oddio, poi dopo bisognerebbe approfondire il fatto che molti dei signori che si stanno esibendo e si esibiranno a Londra siano fior di professionisti. Perché, assolutamente, assolutamente. Mi pare che il Dream Team non sia composto di volontari del mutuo soccorso. No, assolutamente. E, prima di andare a vedere che cosa succede con il meteo, andiamo invece sulla Juventus, Xavier, perché si apre una settimana decisamente non importante, fondamentale per la Juventus. Sì, perché mercoledì 1 agosto davanti alla disciplinare si inizia il processo per la questione delle scommesse, che vede come imputati deferiti dalla Procura federale Conte, Bonucci, che vive la posizione più delicata, e Pepe. Conte e Pepe sono stati deferiti, cioè rinviati a giudizio, per usare questa espressione mutuata dal lessico della giustizia ordinaria, dal procuratore federale per omessa denuncia, e invece Bonucci per illecito sportivo. Se venisse dichiarato colpevole, il difensore della Juve e della Nazionale rischierebbe una squalifica di almeno 3 anni. Allora, premesso e ricordato ancora una volta che la Juventus non c'entra nulla con questa vicenda, perché gli addebiti mossi nei confronti dei suoi attuali tesserati si riferiscono alle loro precedenti esperienze professionali: Pepe nell'Udinese, Conte allenatore del Siena, Bonucci durante il periodo in cui giocava per il Bari. È evidente che l'osservato speciale sia Antonio Conte. Perché questo? Perché essendo stato deferito per 2 omesse denunce sulla scorta delle accuse del pentito Filippo Carobbio, ex giocatore del Siena allenato all'epoca da Conte, il tecnico pugliese sulla carta rischia una squalifica fino ad 1 anno. I suoi legali stanno cercando di convincerlo, e presumibilmente lo convinceranno, ad accettare la via del patteggiamento, il che comporterebbe la possibilità di essere squalificati per un periodo oscillante fra i 3 e i 4 mesi. Ma lì cosa succederebbe, Xavier? Non potrebbe andare solo in panchina? Non potrebbe, esatto, allenare la squadra? No, non potrebbe andare in panchina, tant'è vero che la soluzione pronta della Juventus si chiama Marco Baroni, che è l'allenatore della Primavera, perché sia Alessio, sia Stellini, gli altri collaboratori di Conte sono stati anch'essi deferiti. Ma al di là della situazione oggettiva, perché vedremo, mercoledì, giovedì ci sarà già la sentenza, poi rammentiamo che eventualmente ci sarebbero 2 ulteriori gradi di giudizio, ovvero l'appello di fronte alla Federcalcio e il 3° grado di giudizio, Cassazione fra virgolette sportiva, che è l'Alta Corte di Giustizia del CONI. Il problema riguarda l'attendibilità del pentito Carobbio. Ci sono dei buchi neri nei deferimenti di Palazzi, ovvero 23 tesserati hanno smentito le affermazioni di Carobbio contro Antonio Conte e non sono stati ritenuti credibili. Ma allora la domanda che naturalmente tutti noi ci siamo posti è: perché non sono stati deferiti anche loro per omessa denuncia? E poi, perché Carobbio è considerato attendibile nei confronti di Conte e non attendibile nei confronti di altri tesserati che dal rischio di deferimento per responsabilità diretta sono passati ad un deferimento per responsabilità oggettiva? Questo è un punto fondamentale che mi auguro il dibattimento chiarisca. Perché Conte potrebbe scegliere il patteggiamento, che davanti alla giustizia ordinaria significa un'ammissione di colpevolezza? Non è la stessa cosa davanti alla giustizia sportiva, perché i legali di Conte hanno acclarato che qualora il tecnico della Juventus non accettasse, non proponesse il patteggiamento, ma andasse a giudizio, rischierebbe, nonostante la sua professione di innocenza, alla quale io personalmente, per il poco che vale la mia opinione, credo, una sanzione molto dura di 1 anno circa di squalifica. Per la Juventus questo sarebbe veramente... Assolutamente. Brasile e Bielorussia 2-1 dopo che ha segnato Pato, capolavoro di Neymar. E questi giocatori, che con Neymar, che è un giocatore che forse gli anni scorsi sarebbe arrivato in Europa. Sì, assolutamente sì, ne parlavamo durante il break pubblicitario. È la conferma di come siano cambiati i rapporti di forza fra il calcio sudamericano, in particolare quello brasiliano, e il calcio europeo. Perché questo? Perché il Brasile, insieme con l'India, la Cina, la Russia, le economie locomotiva della parte del mondo che non soffre la terribile crisi economica che invece accusiamo nell'eurozona, ma non soltanto nell'eurozona, hanno e dispongono di mezzi e capacità finanziarie tali da consentire loro di imporre dei prezzi assolutamente esorbitanti e fuori mercato alle società italiane. Ganso, Neymar, Già l'anno scorso erano stati al centro dell'attenzione del Milan, per esempio, ma quando le società di provenienza dei due giocatori chiedono dai 35 ai 40 milioni di euro più l'ingaggio, ricordiamo poi l'ingaggio vuol dire che le tasse sono sempre a carico ovviamente della società, si tratta di operazioni improponibili. E fra l'altro il giocatore del Santos è uno di quei giocatori che probabilmente saranno il caposaldo della nazionale brasiliana per i prossimi mondiali, 20 o 21 anni, adesso io vado a memoria, tu sicuramente 21 anni. Ecco, non solo il Brasile non esporta, ma importa i giocatori adesso. Clarence Seedorf al Botafogo, per esempio. Che va al Botafogo, per esempio. Sono state suggestioni per Del Piero, anche suggestioni brasiliane. A questo proposito, noi di calciomercato.com abbiamo lanciato ieri una provocazione, ma abbiamo preso più che altro invece una presa di posizione. Abbiamo suggerito al presidente della Juventus, che peraltro non ha certamente bisogno di consigli, ma come ammiratore di calcio ed estimatore di Alessandro Del Piero, cara Juve, perché non riprendi Del Piero? Alla luce anche del passaggio molto delicato cui facevamo riferimento poc'anzi in relazione ai procedimenti disciplinari a carico di Conte e di Bonucci e di Pepe, i cui sviluppi seguiremo in settimana, Del Piero non ha pretese economiche, è pronto a firmare in bianco. Del Piero è un leader che non accampa nessun diritto di titolarità della maglia, sa benissimo che alla sua età non può disputare 40 partite all'anno, ma Del Piero nella passata stagione ha offerto un contributo importante in alcuni passaggi determinanti per lo scudetto della Juventus, e io credo che in questo momento, non avendo ancora firmato per nessun'altra squadra, peraltro nell'intervista rilasciata alla CNN, molto interessante, ancora una volta si è dimostrato un gran signore perché ha affermato di non nutrire né di serbare nessun rancore nei confronti di Agnelli e della Juventus che non gli hanno rinnovato il contratto scaduto il 30 giugno scorso. Però perché non riprendere Del Piero, che anche dal punto di vista morale, non soltanto tecnico, sarebbe il leader ideale per questa Juve che torna in Coppa dei Campioni? Staremo a vedere. Ma guarda, una cosa che ricordiamo spesso, anche qui a Radio 24, come dicono gli All Blacks, i grandi del rugby neozelandesi, quando prendono un giocatore dicono un buon giocatore buono, un bravo giocatore bravo, good people good. E perché? Deve essere bravo tecnicamente, ma deve essere anche una gran persona. Ecco, Del Piero ricalca, Kakà, che abbiamo accennato prima, ricalcano esattamente questo pensiero. Claudio, noi seguiamo le vicende dello sport da molto tempo, ma io non so tu, io non avevo mai visto ciò che è accaduto nei confronti del Piero l'ultima giornata di campionato allo Juventus Stadium. Una partita che continua e il pubblico che per 20 minuti pensa solo e soltanto ad omaggiare quello che è stato veramente un giocatore simbolo non solo della Juventus. Del Piero è un patrimonio del calcio italiano. L'altro giorno ha disputato un amichevole in Giappone e ha ricevuto un'ovazione formidabile. In tutto il mondo Del Piero è un simbolo della grandezza del calcio italiano. La domanda che non possiamo non porci è: che cosa è accaduto al di là delle disquisizioni sull'età anagrafica eccetera? Ma è vero che Del Piero è più vicino ai 40 che ai 30 anni, ma Del Piero intanto ha detto che vuole giocare altri 5 anni nei suoi progetti. Ma soprattutto Del Piero ha carisma, ha classe, ha tecnica, ha una leadership morale che secondo me in questo momento alla Juventus tornerebbe molto molto potrebbe utile. Servire. Abbiamo già poi degli sms che riguardano questo tema, però li vediamo dopo, perché adesso ci fermiamo un attimo sul calcio e passiamo a un altro gigante del giornalismo sportivo come sei tu, Xavier Iacobelli, direttore editoriale di calciomercato.com, che è qui con noi perché siamo con Mario Poltornieri. Buongiorno Mario. Ciao Mario. A tutti. E allora, Ubi Maior Minor Cesto, qui abbiamo davvero a che fare con un gigante del giornalismo sportivo, è una leggenda del giornalismo sportivo della Formula 1, è un grande piacere per me poter interloquire con Mario Poltornieri. Lo è anche per noi di Radio 24, naturalmente. Allora, vince Hamilton, abbiamo detto all'inizio, Alonso quinto, però diciamo che alla fine ha allungato Alonso, Hamilton ha vinto davanti alle due Lotus, poi Vettel, ma è andata bene sostanzialmente alla Ferrari in questo caso, per come è andato il Gran Premio. Perché a 40 punti, 42, quindi insomma diciamo i suoi veri avversari sono praticamente dispaccati, perché Hamilton ha fatto finalmente una corsa, chiamiamola così, regolare, tranquilla, veloce, però non è ovviamente nel pacchetto, perché avendo 117 punti, così come Raikkonen ne ha 116, sono più lontani. Certo, siamo all'inizio del girone in ritorno, undicesimo su 20 prove, quindi può succedere ancora di tutto. Giustamente Alonso diceva, siamo andati molto avanti, ma non bisogna assolutamente mollare, perché dobbiamo fare ancora della strada. Anche perché, per esempio, le Lotus Renault si stanno confermando. Raikkonen oggi, oltre a aver fatto un sorpasso mostro, diciamo, al suo compagno di squadra Grosjean, rischiando molto, fra l'altro, appunto, stanno dimostrando che quelle macchine vanno. Se la Williams avesse dei piloti migliori, probabilmente anche lei sarebbe abbastanza davanti. Però diciamo che la corsa comunque obiettivamente positiva dal punto di vista della Ferrari, per essere una corsa che comunque si diceva è un percorso sulla difensiva, è stata una corsa diciamo così abbastanza noiosa. Faccio due considerazioni, una storica, una di stretta attualità. Nel 1989, nel Gran Premio d'Ungheria, su quello stesso tracciato, Mansell con la Ferrari fece 15 sorpassi, lasciando dietro Senna, Prost e Piquet. Allora vuol dire che c'è qualche cosa nelle macchine di oggi che non vanno, né solo il circuito sarà stretto, i rettilini saranno corti, eccetera, però evidentemente qualcosa non c'è. Altra considerazione che faccio: chi sta guardando le Olimpiadi, qualunque sia lo sport, ha una tensione maggiore di quella che viene dalla gara attuale. Allora c'è, come dico, qualcosa che andrà discusso, però al di là di questo, vedendola semplicemente nell'ottica dello sportivo e dell'appassionato di automobilismo, diciamo che è stata una corsa che una volta di più la Ferrari, anche il box tra l'altro, non come quello della McLaren, che, in cui gli errori non sono infrequenti, tant'è vero che Button ha perso un posto a vantaggio di Alonso proprio perché gli hanno sbagliato il montaggio di una ruota. Quindi diciamo che è stata una corsa positiva che tutto sommato conferma tutte cose che noi sappiamo. Si tratta adesso di vedere in questo mese praticamente di pausa che cosa le singole fabbriche, le singole scuderie riusciranno a escogitare, mentre i piloti potranno finalmente andare anche un po' a riposare al mare. Eh sì, perché c'è proprio questo mese di pausa, si riprende il 2 settembre a Spa, una pausa anche per te buona, Mario, perché hai sempre questo nostro impegno con noi. Salvi Jacobelli, che voleva chiederti una cosa e fare una considerazione con te. Sì, volevo chiederti, Mario, a tuo avviso, hai parlato, attingendo alla metafora calcistica, di questo girone di ritorno che si è appena iniziato, quale sarà il ruolo che potrà giocare Massa? Insomma, purtroppo Massa ha dato ormai troppe prove di essere incostante. Non riesce, è un pilota che, come dico, è velocissimo in certe occasioni, ma purtroppo non è redditizio e non è appunto costante. Quindi anche se riesce a trovare una buona posizione di partenza, mentre in prova va abbastanza bene, poi dopo quando si va agli schieramenti di partenza non sempre è un fenomeno, non riesce durante la corsa ad avere una costanza di rendimento, per cui o per un verso o per l'altro, o perché si tocca con uno o perché fa un testa a coda, non riesce a portare punti. Quindi il problema nella Ferrari sta diventando grosso. Infatti si sta, come nel calcio si sta parlando, ecco, prima ci sono andati a Kakà eccetera, cioè agli acquisti quasi impossibili, anche la Ferrari, che ha 189 punti, si trova davanti la Red Bull con 246, la McLaren con 193. Sì. Perché? Ma perché purtroppo i secondi piloti di quella squadra, degli altre squadre che precedono, riescono a portare punti. Massa purtroppo no, e non dimentichiamoci che Massa, tutto sommato, vado a cercarlo, ha portato fino adesso 25 punti. Sono già abbastanza se fosse un pilota di secondo piano, ma non dimentichiamoci una battuta di Ferrari che era poi cara anche a Frank Williams: io non posso permettermi di pagare due piloti di cui uno solo vincente. Non è male come no, non è male, non è male. Fra l'altro oggi nono Massa con dietro a Mark Webber. Insomma, Ti dico, guarda, è una situazione alla quale la Ferrari dovrà trovare un rimedio. Vabbè, Mario, abbiamo capito che cosa prevedi nel futuro di Massa, cioè non la Ferrari. Vabbè, mi sembra di aver capito. Sì. Va bene, Mario, grazie. Allora, buone vacanze per questo mese in cui Formula 1 non c'è, però va bene, magari ti disturberemo. Ma io sono sempre, infatti, sappiamo che sei pronto. Sappiamo che sei operativo. Va bene, Mario, grazie. E dicevo, sono arrivati un po' di SMS, in particolare sulla Juve. Risponderemo dopo al 349-238-6666. Vabbè, uno che riguarda te, a Bologna ci manca molto un maestro di stile, come scriveva Jacobelli, dice Cesare. Dice, smettiamo di giustificare la Juve sempre e comunque, fa male allo sport, non parlate solo di Juve, Milan e Inter, il meglio è altrove, dice Donato da Roma. Ma insomma, sì, speriamo magari nella Roma quest'anno con Zeman o nel Napoli. Sono juventino, ma se io fossi sicuro al 100% di essere innocente, perché mai dovrei patteggiare? È un problema di fiducia verso chi indaga. Va bene, 800 24 00 24, il nostro numero verde, 349 238 6666. Invece, per i vostri SMS abbiamo, se ne è arrivato qualcuno insomma non propriamente favorevole alla Juve, anche di qualche juventino però, che dice, ma perché patteggiare? Ma intanto voglio dire che qui bisogna rammentare che la Juventus in questa vicenda non c'entra nulla e si ritrova evidentemente coinvolta per via dei precedenti esperienze dei suoi tesserati che hanno portato gli stessi al centro. Ah, questo è bene chiarirlo, Xavier. Perché prima c'era un signore, un messaggio che tu hai letto di un signore che diceva che appunto smettiamola di giustificare la Juve. Qui non giustifica, nessuno giustifica alcunché. Qui noi ci atteniamo ai fatti. I fatti ci dicono che in questo momento la Juventus, che non c'entra nulla nella vicenda delle scommesse, deve però fare i conti con questa situazione. Poi il 2 agosto sapremo quali potranno o dovranno essere le mosse della società bianconera in relazione al verdetto di primo grado, fermo restando il fatto che si tratterà di verdetto di primo grado. Sì, certo, e ci sarà quindi un po'... presumibilmente quantomeno un appello, a meno che la linea del patteggiamento che gli avvocati della Juventus sembrerebbero intenzionati ad adottare non chiuda la vicenda in serie di primo grado. Smettiamola di parlare solo di Juve, Milan e Inter, però effettivamente poi quelle sono le squadre che smuovono, ma quest'anno forse qualcosa si... Insomma, il fenomeno Zeman ha portato molto sulla Serie B l'anno scorso, fra l'altro con una cosa che è del miracoloso, con il Pescara facendolo arrivare in Serie A, ma soprattutto è stata una Serie B divertente proprio perché c'era il Pescara. C'è la prova Zeman adesso per la Roma. Molto, molto intrigante. Non so se il messaggio del signore che ha scritto a Radio 24 fosse riferito soltanto a questioni squisitamente tecniche, e quindi giustamente tu hai allargato il discorso a Zeman. Io mi auguro che Zeman abbia molta fortuna con la sua Roma. Intanto, quando ho visto quei 20.000 tifosi radunati in Curva Sud per l'Open Day della Roma, abbiamo avuto la prova provata di quanto questo signore di 65 anni e il tipo di calcio che predilige piaccia alla gente. Poi soprattutto il calcio italiano deve essere riconoscente a Zeman in materia di valorizzazione di talenti. Penso a Insigne, penso a Immobile, sì. Penso a Verratti, penso, come dicevi tu, al Pescara, straordinario protagonista dell'ultimo campionato di Serie B. Ma perché questo? Perché Zeman, se ha dei giovani di talento, li fa giocare. E la stessa campagna acquisti che la Roma sta conducendo, per esempio, c'è stata molta sorpresa per Taxidis, ma bastava osservare questo giovane in azione con la maglia del Verona nella passata stagione per rendersi conto che avesse davanti a sé un avvenire molto promettente, così come Verratti. Adesso c'è stato, a proposito di Inter, Milan e Juventus, chi si è stracciato le vesti perché è un grande talento di soli 19 anni emigra in Francia. Intanto Verratti ha fatto benissimo a cogliere al volo questa opportunità, perché un contratto quinquennale con il Paris Saint-Germain, che sarà sicuramente protagonista in Champions League, sì. Con questo fior di campioni che ha ingaggiato, era un'occasione unica e ripetibile. Lo stesso dicasi per il Pescara. Ma se volevano Verratti, le grandi società italiane potevano prenderlo tranquillamente nei mesi scorsi ad un prezzo assolutamente inferiore rispetto a quello che il Paris Saint-Germain ha pagato. Si tratta di una questione di fiducia nei giovani, e io penso che la nazionale di Prandelli, ferma restando la delusione per la finale con la Spagna, ma tra un anno in Brasile ci sarà la Confederations Cup, e l'Under 21 affidata a Mangia dopo che Ferrara ha lavorato così bene e ha accettato la proposta della Sampdoria, ci stiano dimostrando che il calcio italiano non è assolutamente al capolinea. Anzi, a mio avviso, se Prandelli finalmente potrà essere messo in condizioni di lavorare, cosa che non gli è stata possibile nei 2 anni in cui ha ottenuto risultati miracolosi, perché Claudio, 3 amichevoli disputate in 8 mesi, nessuno stage, ma nemmeno la Spagna, campione d'Europa del mondo, sarebbe stata capace di arrivare alla finale dell'Europeo. Eppure Prandelli ci è riuscito. Quindi io penso che il calcio italiano sia molto ricco di talenti, ma è una questione di mentalità, deve avere molto più coraggio. E allora chiudiamo un po' come abbiamo iniziato questa puntata di A Tempo di Sport con l'Olimpiade, perché questa sera ci aspettano 3 finali nel nuoto, con Scozzoli nei 100 rana, con nella 400 stile libero la nostra Federica Pellegrini, e poi la staffetta 4% stile libero, e poi anche la semifinale di Occhiuzzi nella spada, perché potrebbe essere un'altra bella soddisfazione. Occhiuzzi che ha eliminato Aldo Montano, che si avvia, speriamo, a portare un'altra medaglia all'Italia. Dario Ricci, collegato con noi da Londra, nostro inviato per Radio 24 alle Olimpiadi. Abbiamo accennato prima anche con Xavier Jacobelli un po' a questo nervosismo che c'è in quello che doveva essere un po' il nostro dream team del nuoto, e che speriamo lo sia poi davvero, ma però c'è un po' di nervosismo, Dario? Ma è chiaro, tra l'altro sto andando verso la scherma, sentite il sottofondo, le voci di... E abbiamo accennato fra poco Occhiuzzi in semifinale. Quindi insomma anche questa è la Londra Olimpica, tanti chilometri a piedi, cioè mi candido a sostituire il Spazio nella 20 km di marcia, Claudio, a questo punto. Detto questo, il nervosismo c'è, perché lo dice il cronometro, e qualche danno è già stato fatto, perché le corsie che ci siamo conquistati non sono delle migliori, la staffetta in ottava è una iattura. E abbiamo sentito Magnini anche dirlo, fra l'altro. E quindi è veramente un problema. Il settimo tempo di Federica fa preoccupare, perché ci sono sempre quei due secondi su Muffat e Smith, e sarà difficile tirarli via in un pomeriggio. Fabio Scozzoli questa medaglia può portarla, è quella che, visto quello che è accaduto finora, sembra più vicina. Ma parliamo di Federica Pellegrini, io sogno una Pellegrini alla Vezzali, quella alla Vezzali che abbiamo visto ieri nella gara vera del terzo posto. Quella è una campionessa di un livello tale che può fare qualsiasi impresa, e Federica, come sottolineavate prima da studio, è di quella famiglia e quindi può fare questa impresa. Va bene Dario, ti lasciamo a prepararti per la tua 20 km di marcia, andando a vedere la semifinale di Occhiuzzi. Nella scherma, Xavier, abbiamo sentito Dario Ricci, sì, un po' si nota un po' questo nervosismo, ma forse può essere anche visto in maniera positiva. Sì, dobbiamo vederlo in maniera positiva. Spesso le grandi imprese sono state precedute da ore di vigilia scandite appunto dalla tensione della gara, dalla consapevolezza della difficoltà dell'ostacolo. D'altra parte, la differenza fra i grandi campioni e gli atleti normali si misura proprio in queste circostanze. Io mi auguro davvero in una performance incredibile di Federica Pellegrini, nei confronti della quale comunque lo sport italiano deve essere già assolutamente molto riconoscente. Assolutamente. Intanto il Brasile ha vinto 3-1 con la Bielorussia, dopo Pato e Neymar a segno anche Oscar. Brasile che è naturalmente il più serio candidato a vincere l'oro a questa Olimpiade. Brasile nel segno dei giovani anche, diciamo, come giovane Stramaccioni, Xavier. 36 anni, il più giovane tecnico della Serie A. Secondo me Moratti ha fatto molto bene a rinnovargli la fiducia al termine dello scorcio di stagione, che ha visto questo tecnico imporsi l'attenzione generale. Non poteva essere lui a compiere il miracolo di portare l'Inter in Champions League, perché la situazione era già stata abbondantemente compromessa nei mesi precedenti il suo avvento. È un Inter che fa i conti da un lato con il fair play finanziario e con l'esigenza di raddrizzare il bilancio. dall'altro con alcune mosse azzeccate, mi riferisco a Palacio, mi riferisco al riscatto del cartellino di Guarin, mi riferisco all'ingaggio di Handanovic, che è uno dei migliori portieri del mondo. Al tempo stesso continuo a non capire le ragioni del trattamento riservato a Giulio Cesar e mi auguro che l'Inter o lo stesso Giulio Cesar possano spiegarle pubblicamente, perché questo che è, a proposito di Brasile, il portiere titolare della nazionale brasiliana che si accinge ad ospitare i mondiali nel 2014, per 7 anni è stato un grande protagonista dell'epopea interista, mi sembra sia stato scaricato come un pacco postale, addirittura non ha partecipato alla preparazione al precampionato, non è stato inserito fatalmente nella lista per il debutto del 2 agosto con l'Hajduk Spalato in Europa League, e quindi spero che ci possa essere una spiegazione plausibile ed auguro a Giulio Cesar di trovare una squadra. Detto questo, naturalmente Handanovic è un buonissimo acquisto. No, è un grandissimo acquisto, però secondo me, vedi, torniamo al discorso della chiarezza con i tifosi, a dire le cose come stanno non si sbaglia mai, no, quindi è evidente, presumiamo noi che ci sia stato, che ci sia qualche contenzioso in essere, così come è stato curioso rinnovare e prolungare il contratto a Lucio l'anno scorso e poi risolverlo e vedere Lucio approdare alla Juventus. Insomma, il mercato è ricco anche di questi episodi variegati. Sì. E per fortuna vostra di calciomercato.com. Ma noi siamo assolutamente grati ai nostri amici navigatori, perché non più tardi di venerdì ci hanno consentito di battere un altro record. Erano più di 500.000 ad affollarsi sul nostro sito nell'arco di una giornata, quindi grazie per la loro attenzione. Il calcio è meraviglioso anche per questo, perché fa parlare di sé anche quando non si gioca. Si gioca invece Uruguay-Senegal, Cavani che naturalmente guida l'Uruguay e guiderà anche il Napoli, Xavier. Sì, credo proprio di sì, sperando che il pirotecnico De Laurentiis non abbia in serbo altre sorprese. Questo è un presidente che ha grandi meriti nella ricostruzione del Napoli, che ha preso in Serie C e ha portato in Champions League, a partecipare alla Champions League. Però alcune volte ci sono delle sue prese di posizioni francamente sconcertanti. L'ultima in ordine di tempo riguarda la Supercoppa di Lega con la Juventus da disputare a Pechino l'11 di agosto. Un mese fa De Laurentiis spuntò i piedi perché si disputasse in Cina, forte anche dell'ingaggio garantito dagli organizzatori. Sappiamo come in queste ore invece ci sia una contrapposizione frontale con la Juventus, perché De Laurentiis non vuole più giocare a Pechino, ha scoperto che Pechino è leggermente fuori mano rispetto a fuori gol. È un po' lontano. Va bene, grazie per essere stato con noi, Xavier Iacobelli, auguri naturalmente per calciomercato.com. A Tempo di Sport torna domani con Carlo Genta, grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Pietro Lacorte in regia.